Per mezzo di quel linguaggio, il discepolo impara a conoscere anche talune norme per la condotta nella vita e determinati doveri dei quali prima nulla sapeva. Dopo aver appreso quelle norme, può compiere azioni di un'importanza mai raggiunta da quelle di un non iniziato. Opera dai mondi superiori. Le indicazioni per quelle azioni possono essere comprese soltanto nella scrittura sopraindicata. Occorre però far notare che vi sono persone che possono eseguire tali azioni inconsapevolmente, sebbene non abbiano seguito alcuna disciplina occulta. Tali aiutatori del mondo e dell'umanità attraversano la vita benedicendo e beneficando. A loro, per ragioni che qui non è il caso di spiegare, sono state concesse doti che sembrano soprannaturali. Ciò che li distingue dal discepolo dell'occultismo è solo che questi agisce coscientemente, con piena visione dell'insieme. Grazie appunto alla disciplina, egli consegue ciò che ai primi è stato donato dalle potenze superiori per il bene del mondo. Gli uomini benedetti da Dio meritano sincera venerazione, ma non per questo il lavoro della disciplina occulta dovrà essere considerato superfluo. Quando il discepolo ha imparato la scrittura occulta, comincia per lui una nuova prova. Deve mostrare se è in grado di muoversi libero e sicuro nel mondo superiore. Nella vita ordinaria, l'uomo viene spinto alle sue azioni da impulsi esterni. Esegue un lavoro o l'altro perché le circostanze gli impongono questo o quell'altro compito. Non occorre certo ripetere che il discepolo dell'occultismo, per il fatto di vivere nei mondi superiori, non deve trascurare alcun dovere della sua vita ordinaria. Nessun dovere nel mondo superiore può obbligarlo a trascurare uno solo dei suoi doveri nel mondo ordinario. Il padre di famiglia rimane ugualmente buon padre di famiglia, la madre rimane ugualmente buona madre, il funzionario non è impedito di assolvere i suoi obblighi e neppure il soldato o qualsiasi altra persona se vuole diventare discepolo occulto. Al contrario, tutte le qualità che temprano l'uomo per la vita si intensificano nel discepolo dell'occultismo in una misura di cui il non iniziato non può farsi un'idea. Se ciò non sempre e persino di rado appaia al non iniziato, è perché questi non è sempre capace di farsi un giudizio giusto sul conto dell'iniziato. Le azioni dell'iniziato talvolta non gli riescono subito chiare, ma anche questo, come si è detto, non succede che in casi speciali. Per chi è arrivato al gradino descritto dell'iniziazione, vi sono ora doveri ai quali non è spinto da nessun impulso esterno. In queste cose non viene spinto da condizioni esteriori, ma soltanto dalle norme di condotta che gli vengono rivelate nella scrittura occulta. A seguito della seconda prova, deve mostrare che sotto la guida di quelle norme la sua azione è altrettanto sicura e ferma quanto quella di un funzionario che sbrighi i doveri che gli incombono. A questo fine il candidato si sentirà posto dalla disciplina occulta di fronte ad un determinato compito. Dovrà compiere un'azione in seguito ad osservazioni che fa sulla base di quanto ha imparato sul gradino della preparazione e dell'illuminazione, comprendendo quale sia l'azione della scrittura occulta descritta che ormai conosce. Se egli sa discernere il proprio dovere e agisce giustamente, è riuscito nella prova. Si riconosce il successo dalla trasformazione che avviene, per virtù dell'azione compiuta, in ciò che le orecchie e gli occhi spirituali percepiscono come figure, colori e suoni. Nel progressivo corso dell'educazione occulta viene esattamente detto quale aspetto tali figure, colori e suoni assumano dopo l'azione e come vengano sentiti. Il candidato deve sapere come provocare tale trasformazione. Questa prova è chiamata la prova dell'acqua. Perché nell'attività che si svolge in queste regioni superiori viene a mancare all'uomo l'appoggio delle condizioni esteriori, come manca l'appoggio a chi si muova nell'acqua senza arrivare a toccare il fondo. Il processo deve essere ripetuto finché il candidato non abbia acquistato completa sicurezza. Anche con questa prova si tratta di acquistare una qualità. Grazie alle sue esperienze nel mondo superiore, il discepolo sviluppa tale qualità in breve tempo, ad un così altissimo grado che per raggiungerlo nel corso normale della sua evoluzione avrebbe avuto bisogno di molte incarnazioni. È importante che il candidato, per produrre nel campo superiore dell'esistenza la trasformazione descritta, debba seguire solo le indicazioni che gli risultano dalla sua percezione superiore e dalla lettura della scrittura occulta. Se, durante la sua azione, il candidato si lasciasse influenzare da desideri ed opinioni personali, se per un solo istante non seguisse le leggi da lui riconosciute giuste, ma si abbandonasse al proprio arbitrio, ne risulterebbe qualcosa del tutto diverso da ciò che sarebbe dovuto accadere. Il candidato perderebbe subito la direzione e lo scopo delle sue azioni e cadrebbe nella massima confusione. Grazie a questa prova, l'uomo ha quindi ampia occasione di sviluppare la padronanza di sé, e di questo appunto si tratta. Perciò questa prova potrà essere sopportata meglio da chi, prima dell'iniziazione, abbia attraversato una vita che gli ha permesso di sviluppare la padronanza di sé. Chi ha acquisito la capacità di seguire principi ed ideali alti, senza curarsi di propri desideri e scopi personali, chi sa sempre compiere il suo dovere, anche quando inclinazioni e simpatie tendono a distrarlo, nella vita abituale è già inconsapevolmente un iniziato. Ben poco gli mancherà per poter superare la prova descritta. Si può dire anzi che un determinato grado di iniziazione acquistato inconsciamente già nella vita è in genere necessario per superare la seconda prova. Infatti, come per chi non ha imparato a scrivere da giovane diventa difficile impararlo più tardi, quando ha raggiunto l'età matura, così diventa anche difficile per l'uomo sviluppare sufficiente padronanza di sé quando penetra nei mondi superiori, se già prima, nella vita quotidiana, non abbia sviluppato questa qualità fino ad un determinato grado. Le cose del mondo fisico non cambiano a seconda della nostra volontà, dei desideri e delle nostre tendenze. Nei mondi superiori, i nostri desideri, le nostre passioni, le nostre tendenze esercitano invece un'azione sulle cose. Chi vuole agire sulle cose in modo adeguato deve aver completo dominio su se stesso, deve seguire le giuste norme direttive senza lasciarsi guidare dal proprio arbitrio. A questo gradino dell'iniziazione è di particolare importanza che il candidato sia provvisto della qualità di un discernimento del tutto sano e sicuro. Occorre aver coltivato questa qualità fin dai primi gradini. Ora deve mostrarsi se egli lo sappia usare in modo da poter progredire sulla vera via della conoscenza. Può progredire soltanto se è in grado di distinguere l'illusione, le vuote creazioni della fantasia, la superstizione ed altri errori simili dalla vera realtà. Ai gradini superiori dell'esistenza ciò è più difficile che su quelli inferiori. Ora deve sparire ogni pregiudizio, ogni preferenza riguardo alle cose di cui si tratta. La verità unica e sola deve servire di guida. Deve esistere la più completa disposizione a rinunciare subito ad ogni pensiero, opinione e tendenza, quando il pensiero logico lo esiga. Si consegue sicurezza nei mondi superiori soltanto se mai si bada alla propria opinione.